Li avevamo sentiti quasi un anno fa a proposito del primo volume Bologna Moderna. Abbiamo l'immenso piacere di avere di nuovo con noi Jeremy dei Feng Shui Project. Ciao Jeremy, come stai? Ciao Olga, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, sto bene, sono a Torino. Voi siete già stati ospiti a Radio Città Fujiko e avevate presentato il volume 1, ma una settimana fa è uscito il secondo di Bologna Moderna, che chiude un po' il cerchio dopo un anno di lavorazione. In che modo avete deciso di concludere questo viaggio? Molto semplicemente, in realtà più che una conclusione vera e propria, si tratta semplicemente di aver dato il là a tutto quello che è stato il prodotto Bologna Moderna, quindi avevamo deciso comunque di diluirlo un po' nel tempo per far sì che il lavoro potesse essere goduto un po' nel tempo, ecco, che non si fermasse tutto insieme, ecco. Quindi abbiamo deciso di fare il volume 1 e il volume 2 semplicemente così, per dare un po' di continuità nel tempo e per poter far sì che questo prodotto si potesse espandere un po' in lungo e in largo il più possibile, ecco, anche perché per noi è stata comunque un'esperienza in qualche modo un po' nuova anche come approccio sia di produzione che di promozione del prodotto. Siamo tornati indipendenti, quindi ci siamo voluti anche un po' confrontare e misurare con questa nuova dimensione, che non è troppo nuova per noi ma lo è in questo momento. Il tutto è durato un anno ed è volato, quindi in realtà quando il tempo vola vuol dire che ci si diverte, vuol dire che è andata bene. È vero. A proposito del primo, io l'ho trovato, e anche Adele, che vi aveva fatto la precedente intervista, concorda con me, un viaggio in cui avevate tinto la città di blu ed è ripreso anche nella grafica. Questa volta invece l'avete tinta di rosso. Infatti questo nuovo lavoro io l'ho trovato avvolgente, sicuramente come l'altro e come l'aggettivo che descrive in generale la vostra musica, però un disco più caldo, più estivo nel senso di apertura, di allegria. Mi fa piacere innanzitutto che questo feedback parta da voi, perché non volendoci trovare delle connessioni prestabilite, innanzitutto il blu e il rosso, se non ricordo male, sono i colori di Bologna. In realtà questo link noi non l'abbiamo grandemente cercato, quindi il fatto che tu mi dia questo input è molto bello. Le atmosfere che si trovano in questo volume 2 sono molto vicine al primo, sì, però come hai detto tu, appunto, in qualche modo la temperatura si alza. Se poi penso appunto alle strade di Bologna, è un colore che posa effettivamente molto bene, ritorna anche nella grafica. Abbiamo voluto dare un po' di continuità comunque, almeno stilisticamente parlando, però sì, il feedback che mi dai è molto bello e ne faccio tesoro io in primis. Quindi nei vostri progetti una cosa che ho sempre notato, seppur nella loro brevità, si vede che sono stati curati nel dettaglio. Insieme a voi infatti collaborano tantissime persone, dal mix audio fino agli strumenti e fino appunto alla grafica. Volevo chiederti invece a chi vi siete affidati per concludere questo EP. Allora, in realtà questo EP ha chiuso la partecipazione di praticamente delle medesime persone del volume 1, a partire dai musicisti fino alle persone che si sono occupate del mix del master, quindi Frank Sativa e Simone Squillario, e considerando anche i musicisti che hanno lavorato con noi, ci tengo a nominarli ovviamente per dovere di cronaca: Giovanni Tamburini alla tromba, Pier Francesco Melucci al piano. Nel volume 2 abbiamo avuto anche la partecipazione di Andrea Salvato al flauto traverso, Gianluca Arcesilai alla chitarra, che sono praticamente gli componenti degli Icona Cluster, un'altra band che a Bologna adesso sta venendo fuori per bene, di cui siamo anche molto amici e fan, che sono ragazzi super talentuosi della scena groove della città e non solo. Non voglio dire black per evitare magari fraintendimenti, ma loro si muovono comunque dal jazz al funk, e avendoci lavorato sul volume 1 ci siamo trovati da Dio. Questa esperienza è stata bellissima da portare anche sul volume 2 e abbiamo voluto includerli appunto anche in questo senso. Diciamo, squadra che vince non si cambia tendenzialmente. Poi chissà, ci piacerebbe comunque riuscire a dare una continuità anche magari live a questo progetto, ci stiamo un minimo pensando e lavorando e chi lo sa, vedremo. Ecco, mi hai un po' anticipato l'ultima domanda, perché quando ho detto intervisto i Feng Shui, tutti in redazione ha detto: ma che figata, loro bravissimi. Quindi volevo chiederti, a nome un po' di tutti, certo, quando è che venite live a Bologna, così la redazione di Radio Città Fujiko si trasferisce sotto il palco? C'hai ragione, guarda, hai ragionissimo, e vorrei poterti dire che domani parte il tour con 500 date, di cui 140 solo a Bologna, ma purtroppo non posso darti questo tipo di notizia. Quello che posso dirti è che non abbiamo ancora un impianto di tour in programma a breve, ma stiamo lavorando per far sì che almeno dall'autunno e l'inverno si possa riuscire a portare questo progetto live, perché portarlo live sarebbe molto molto bello e potrebbe dare sia a noi che ai nostri fan, come dire, un palcoscenico nuovo anche dove dove condividere emozioni nuove musicali, c'è un fil rouge che continua, ci piacerebbe poterlo esternare dal vero, ecco. Sicuramente qualora riuscissimo a portarlo in giro, Bologna sarà ovviamente, probabilmente sarà la prima città dove suoneremo, anche perché è un disco che abbiamo dedicato a lei, è una città che amiamo e in cui metà di noi vive lì. Stefano, il mio socio Natti Dub, vive ancora a Bologna, io ci ho vissuto, quindi siamo molto legati e ovviamente sarà nostra cura intenzione fare almeno un live a Bologna, questo ce lo siamo promesso, ecco. Allora noi vi aspettiamo e ti ringraziamo Jeremy sempre per la gentilezza e la disponibilità, ti auguriamo in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti e ti ringraziamo per essere stato su Radio Città Fujiko. Viva il lupo e grazie mille a voi, grazie ancora a Radio Città Fujiko, un saluto a tutti.